Voci di piccola impresa, idee anticrisi, di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Anche tempo libero e vacanze sono state contagiate dal social, soprattutto se le esigenze sono mirate. Andare in barca con l'equipaggio giusto, in una pausa dal lavoro ben definita, cercare luoghi in cui una famiglia si senta non solo a proprio agio, ma abbia anche servizi utili, che è disposta a pagare come ottimo cliente, perché il family friendly è un mercato affidabile e solido, che ha tantissima domanda ma offerta scarsa, e pensare che viene ancora quasi ignorato in tempo di crisi. Un mercato social delle vacanze e del tempo libero ancora da esplorare. Ed ecco Sail Square, un servizio innovativo per proporre e organizzare le vacanze in barca a vela, più sociale, collaborativo e internazionale. Grazie a un database di migliaia di barche in tutto il mondo e a una community in costante crescita, Sail Square, e questa la prima nostra startup, è il luogo ideale per gli appassionati di vela e gli amanti di mare che vogliono pubblicare le loro proposte di vacanza e scoprire le esperienze uniche organizzate da skipper esperti, oppure soltanto estendere la propria rete di amicizie. Riccardo Boatti, uno dei due fondatori della piattaforma. L'idea è nata nel Sant'Ambrogio, nelle vacanze di Sant'Ambrogio del 2012. Io e Simone Marini, il mio socio in Sail Square, abbiamo fatto una breve analisi di come fosse complicato in molti casi organizzare una vacanza in barca a vela e mettere d'accordo amici e parenti, vuoi perché ognuno ha il suo periodo di vacanza, vuoi perché ognuno ha un'idea un po' diversa di vacanza in barca. E da lì, unita un po' alle competenze sul tema della comunicazione online e dell'information technology, ci è venuta l'idea di sviluppare una piattaforma peer-to-peer che permettesse agli utenti di aggregarsi attorno a progetti di vacanza. Sail Square, che cosa permette di fare a chi si collega? Allora, all'interno di Sail Square ci sono, diciamo, due tipologie di utenti. Da un lato, skipper privati, armatori privati, che possono mettere a disposizione le proprie competenze per creare dei progetti di vacanza, questo a seguito di un processo di validazione da parte nostra, e dall'altra utenti, persone interessate a partecipare a vacanze in barca a vela. Chi vi ha aiutato? Quali sono state le vostre competenze e la squadra qual è? Siamo partiti, sono io e Simone Marini in questa iniziativa. Dopodiché abbiamo iniziato a costruire una squadra sia di un team di professionisti interni che di freelance esterni per quanto riguarda lo sviluppo, il fatto del codice della piattaforma, la parte legale e una serie di altri supporti esterni. Quindi non è stata una navigazione in solitaria, il primo equipaggio siete stati voi due e poi avete iniziato a veleggiare con altre persone. Sì. Che cosa avete dovuto mettere come soldi subito e soprattutto come avete fatto? Avete iniziato da soli però? Allora, noi abbiamo iniziato da soli decidendo di mollare subito e totalmente le nostre attività professionali. Vengo dalla comunicazione online, ero project manager in agenzia New Media, Simone era un manager dell'IT e abbiamo deciso da subito di licenziarci e di partire con questo progetto a tempo pieno. Coraggio. E quanti soldi? Molto coraggio e 5 figli in 2. Quindi un'avventura ovviamente, mare aperto. Sicuramente un'avventura con un pochettino di capitale, dei risparmi che avevamo da parte, che sono nell'ordine dei 70.000 euro del primo anno. Ecco, questa è un'indicazione per chi ci ascolta. Sì. Poi chi è arrivato ad aiutarvi, a tirarvi, come dire, una fune per trainarvi insieme a lui? Allora, diciamo, dopo la prima stagione del 2013, che è andata molto bene, la piattaforma è iniziata a partire, a questo punto siamo andati da classici start-upper a incontrare business angel e associazioni di business angel sia in Italia che all'estero per proporre il nostro progetto e quindi richiedere una partecipazione economica da parte di soggetti esterni. Abbiamo trovato una quindicina di soggetti privati che sono entrati a fine del 2013 nella compagine societaria, immettendo appunto nella società un finanziamento di 200.000 euro. Parliamo di navigazione. Voi appunto ai naviganti che cosa offrite? quale certificazione del vostro servizio? Cioè, se io voglio andare in barca quest'estate, che cosa faccio? In primis una certificazione degli skipper e degli armatori che propongono iniziative sulla piattaforma. All'interno del team c'è una persona, Filippo, che si occupa di ricevere le candidature di armatori e di skipper, di valutarle e, se il profilo risulta adeguato, abilitarli a pubblicare le vacanze. Quindi voi avete verificato, diciamo, tutti gli utenti, le barche, gli skipper, eccetera, avete verificato ovviamente i pagamenti, assistenza c'è, però andare in barca bisogna, diciamo, trovarsi d'accordo. È il punto più dolente. Come fate a evitare, insomma, diciamo, i litigi? Diciamo che è il punto più importante del nostro progetto. Si fatica molto, e direi che siamo più o meno gli unici, a presentare delle proposte di vacanza all'interno delle quali è molto ben definito il target della vacanza, quindi la tipologia di persone che ci si aspetta a bordo, l'età e la tipologia di vacanza che si va a fare. Non ultimo, se ci sono già delle persone presenti a bordo delle singole vacanze, si vede il profilo e possono essere contattati gli utenti. Quindi il nostro approccio è molto legato a un'esperienza sociale di gruppo. Allora, il modello di business, da che cosa guadagnate, numeri e anche quanti utenti avete? Allora, il modello di business è molto semplice: registrarsi a Safe Square e pubblicare delle proposte di vacanza è assolutamente gratuito. La nostra, al momento, unica fonte di revenue è l'intermediazione nel momento in cui l'utente sale a bordo di una vacanza. La filiera è molto corta, quindi effettivamente privato su privato, e questo permette poi agli utenti un risparmio effettivo sulle vacanze in media superiore al 30%. Sul fronte delle famiglie non hanno ignorato il mercato, una prateria da conquistare i fondatori di Kid Pass. È la startup che lancia in anteprima nazionale Piano C, cioè la prima esperienza in Italia di co-working con baby parking, la nuova piattaforma web per promuovere la qualità del tempo fuori casa vissuto dai grandi insieme ai piccini. L'obiettivo è far incontrare le migliori strutture, dotate di spazi, servizi e attività dedicate con gli adulti che vogliono accedervi insieme ai bambini. Nella vita di tutti i giorni, nel tempo libero o per una vacanza, Kid Pass ambisce a valorizzare tutti i luoghi e gli eventi che offrono un'opportunità di stare insieme ai piccoli da 0 a 12 anni, in nome della cultura dell'accoglienza dei bambini nei luoghi dei grandi. Un bollino lo certifica. Il progetto ha molti ingredienti di novità. Ce li racconta Marianna Vianello, CEO and founder di Kid Pass. Ma l'idea di Kid Pass è nata da un momento un po' particolare, che mi fa un po' sorridere, che mi è capitato proprio come mamma. Mi sono ritrovata in un ristorante con il mio secondo bambino, che aveva pochi mesi, e alla domanda "dov'è il fasciatoio?" e mi hanno detto "no, guardi, non ce l'abbiamo". "Un tavolino, allora, non so dove appoggiarmi". "No, guardi, non abbiamo neanche un tavolino". "E come faccio, devo cambiare il pannolino al bambino?" "Guardi, non so, esca fuori, vada in macchina". Vi racconto solo che pioveva ed era freddissimo, il bambino si era sporcato tutto, per cui da quel momento ho detto no, non è possibile. Ancora posti in cui, cioè, andare con i bambini diventa davvero un problema. Questa esperienza, esatto, ha portato a una startup e a un'idea anticrisi. Quale? L'idea è quella di valorizzare invece tutti i luoghi in cui iniziano a esserci degli spazi attrezzati e anche delle attività, perché ci sono sempre più delle proposte, delle iniziative di laboratori, letture animate, attività proprio da fare insieme ai bambini e genitori anche nei luoghi tradizionalmente dei grandi, per cui dai musei ai negozi, i ristoranti, l'hotel, tantissimi luoghi adesso per fortuna iniziano ad avere più attenzione, per cui perché non valorizzarli? Perché alla fine noi genitori li cerchiamo veramente con tanto interesse, ma non è facile capire quali sono, dove sono, non sono facilmente rintracciabili. Ecco, la cosa importante è anche questa: dal punto di vista economico si tratta di un mercato, i genitori, che paga perché è affidabile, perché ha bisogno di servizi, e in più in un momento di crisi non può essere tralasciato un mercato così ghiotto, e questa è la cosa importante. Come avete fatto a creare una startup, una struttura che desse questa informazione ai genitori? Ma l'abbiamo fatto perché quando io ho iniziato a confrontarmi con degli amici e dei professionisti sulla mia idea, appunto, di creare un motore di ricerca, in sostanza, che rendesse veramente semplice, intuitivo, immediata la ricerca di questi luoghi a misura di bambino e degli eventi, ha trovato subito terreno fertile, per cui sia genitori e degli esperti in vari settori che non hanno bambini da subito hanno detto: caspita, questa è un'idea che può funzionare. Per cui ho trovato veramente delle collaborazioni di qualità di alto livello che mi stanno aiutando a creare questo servizio. Ecco, business angel oppure incubatori eccetera o associazioni che vi abbiano aiutato? Sì, allora noi siamo nell'incubatore del Vega, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, e quindi sicuramente anche essere qui fa la differenza, perché non siamo da soli, siamo in rete con altre start-up e in un grande parco che ospita più di 80 aziende con tantissimi lavoratori. Abbiamo qui vicino una serie di associazioni di categoria e poi grazie alla Camera di Commercio, MAG Venezia, Italia Lavoro abbiamo ottenuto una serie di finanziamenti che ci hanno aiutato a partire. Come funziona il meccanismo, il modello di business, i clienti, gli utenti, in che città siete? Allora, noi innanzitutto partiamo su 5 città: Milano, Roma, Venezia, Bologna e Torino. Ma stiamo già lavorando per espanderci anche in altre città. Comunque il concetto è di essere urbani, quindi centrati su una città in particolare, partendo dalle principali città, e l'iscrizione è gratuita, per cui la struttura può veramente in un minuto compilare il nostro form che è nella nostra home page, seleziona le facilities a misura di bambino che sono facilmente riconoscibili dell'icone e noi verifichiamo, approviamo la struttura, quindi la pubblichiamo in un secondo momento nel giro di 24-48 ore linea di massima. E poi c'è il rating degli utenti, per cui gli utenti che visitano le strutture possono votarle. Da che cosa guadagnate? Allora, la premessa è che noi abbiamo inteso veramente offrire questo servizio base gratuito, sia per la pubblicazione dei profili delle strutture, sia per la pubblicazione degli eventi e delle attività, e in maniera di raggiungere la massima capillarità, che per noi è strategica in questo momento, per inserirci nel mercato. Ovviamente noi dobbiamo adesso lavorare sulla parte invece revenue. E come lo facciamo? Lo facciamo con un meccanismo di mettere in evidenza le strutture che ci chiedono questo servizio opzionale a pagamento, poi ovviamente la possibilità di mettere dei banner e di fare dei redazionali sponsorizzati nel nostro blog o le news con un evento importante in evidenza. Ovviamente voi avete fatto una proiezione, dove volete arrivare? Noi vogliamo diventare il portale di riferimento della qualità del tempo fuori casa con i bambini in Italia. Perché non c'è nessuno come noi che lavori a livello nazionale, quindi su più città, su un territorio ampio, e che non sia focalizzato solo sugli aspetti turistici. Noi siamo utili veramente nella vita di tutti i giorni, dei genitori, delle famiglie, degli educatori. E ora via, continuiamo la vacanza e iniziamo le nostre start-up del tempo libero. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre voci di piccole imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, al blog su www.radio24.it, dove potete trovare anche il download grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci di Piccola Impresa, idee anticrisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Un saluto e a sabato prossimo.